Claudio! Ciao, Graziano, non sento Antonino, dov'è? Ho l'acceso adesso, ho sentito solo a te. Mi a me, mi. Ah, già c'è Tonino, già c'è. Cappa che ci sono. Allora, sembra che stia rinfrescando un pochino questa notte, dai. Si sa che è meglio, comunque buonasera a tutti. Buonasera Tonino, gufo. Fammi capire, chi c'è qua? Là. C'è Graziano Gufo e io. Ci deve essere anche Emanuele. Emanuele. Ma dito attenti su chi su canale. Ciao Gufo, comunque aver sentito, ciao Claudio. È cambiato! Emanuele! Emanuele, ci sei! Pronti, pronti, chi è? Era ora. E beh, Tony! Allora, qua c'è Claudio e Gufo. Chi c'è? Claudio e Gufo. Ah, ciao Graziano, ciao Claudio, buonasera, vai Tony. Cappa, beh, sto portando fino adesso, avanti Claudio. Ehi, ehi, io le Fornelli, che ho fatto un po' di spezzatino, ho appento la pressione, poi me l'ho passato nell'altro tegame, ho rosolato un po' con la cipolla e fatto un agrodolce. Accetto il zucchero, Gucci e Grazia. Ah no, io me lo posso con un passato. Metto cipolla, la faccio arrosolare, un po' di rosmarino, l'ubattato, gli do una rosolata, poi aggiungo l'acqua, la carne e lo posso cucinare lemme lemme. E da poi quasi a cottura ci metto i fagioli borlotti e le dago un poco e da poi lo dago barra e esci un bombo. Se vi fate il fagiolo, non ho compreso. Se fai il fagiolo, fai il fagiolo. Se fai lo ghisato, fai lo ghisato. Cosa? Buon poco di goccia. No, no. Questo è lo stesso procedimento del cinghiale. Anziché essere cinghiale, è spezzatino di maiale in agrodolce. Molto, molto buono. E un po' di salatona stanotte. Tutto qua. Capito, mi hai? E beh, Manuè, a dolore c'è ancora. A me va a mezza bottitura, c'è cosa? Lascia perdere, ok, io stavo dicendo a Tonino pure. Cazzo, stamattina non me la faccio mai qua a muovermi da un rito. No, è bello che dal bacino, cazzo, c'ho dolori. Beh, normale, ma come fa una persona senza medicina così a curare un male che hanno il 90% delle persone? È una cosa allucinante, quando c'è o che sia sciatica, o che sia artrosi, o che sia ernia del disco, non c'è niente da fare. O fai la cura con gli antidolorifici, o ti fai l'operazione, ma non penso che così spiritualmente passi. È una cosa assurda, capito? Io non ci credo a queste stronzate, Emanuele. Vai, Tony. Ecco. Anch'io ho detto all'inizio, sono sciatico. Chiaghi, Nareci, boh. Che poi anche mio figlio mi ha confermato che lui c'ha il mal di schiena, gli hanno fatto questi 11 anni nella schiena, dice che gli hanno confessato chiaro e chiaro, dice questo è per ingannarti il cervello di non avere dolore, ma poi il coso rimane sempre, quindi un domani ce l'avrai di nuovo. Ed è la cosa più giusta, o topereggi oppure ciccia. Non esiste, ci vuole la cura medica per passare queste cose, Tony, non esiste, io anni che ce l'ho e me la tengo, però ti posso dire che io ad Alghero ho fatto 6 filtrazioni, ma filtrazioni con medicina, capito? E sono anni che non ho più il dolore che avevo prima. Certo, che come ti ho già detto, che se ne approfitto sento ogni tanto un dolorino, ma non come te prima che mi alzavo dal letto tutto piegato e prima di riprendermi ci passava tutta la mattinata, capito? Perché a freddo è così, appena ti alzi dal letto che i muscoli sono tutti rilassati, non venuta la va, cosa, sono stronzato. Vai, Grazia. Ehi, io l'ultima visita che ho fatto, prima delle 4, le 1, le 2, le 3, le 4, ma è pure le 5, ho 5 ernie del disco, papi Zammini vivo la grudo, Manzano, a chi ciò che tutto vuoi, e anche andare a ripigliarmi, ci fanno le 11 ai movimenti. poi dopo le due cominciare a farmi male, però mi prendo tanti dolori, dico io, mi raggiungo dal suo. A chi va giù la china in due non posso usare né posate né in piedi, a chi mi dolori di me stessi, me lo allevia un po' e buh. Dunque, il mio collega c'ha la stessa cosa e ha fatto questa zooterapia, si chiama. Queste punture ne ha fatto 8, a 80 euro l'una. E dice non va più nulla, ma io per me sono propenso più a farmi la laser, buonanotte. Ne ho fatto 24, due scatole da 12, di muscolo e voltare assieme. È chiaro che iniettando la medicina è un antinfiammatorio, passa, però il problema rimane, capito? Ma non usci con dei laghi botti da recci. Se si ribugna il naso si fa zero birsing. Avanti, Manuel. E infatti, cazzo, siamo arrivati lì. Prima l'ha fatta a Torino, la giurifica, gli ha detto si sdrai, tutto quanto, si è bugato le volte. E pensavo che le faccia massaggio o che cosa. No, a posto ha iniziato a bugare i chiari. Questi ribugnani, la Reci, cazzo, pare che la vedendo non so cosa, un bullone, cazzo, ne ha dolori. E poi, quando ne stava finito di mettere tutti questi aghi qua, 5 da una parte e 5 dall'altra, nell'orecchio, li manteneva il gabbo. Ma non faceva altro, li manteneva solo la testa e basta. Vai, vai, dice Santone, lascia perdere. Per curare queste cose ci vuole una terapia medica, non ce ne vogliono di queste stronzate, Emanuele. Lasciate perdere. Sale di lampado 70 euro e tutta la giornata persa per niente. Per nulla, perché non serve a niente. Io vi consiglio a tutte e due, punture dei muscoli a voltare, scatola da 12 per 1. Provatevi che ve la fa e tu vedrai che se ti va della puntura entro il muscolo, tu senti avere dolori. Io sono rimasto più di un anno che non avevo più dolori, poi non ne ho fatto più punture, ne ho approfittato e mi è tornato, ma molto, ma molto più leggero, molto più leggero. E allora ho fatto l'agopuntura. Da quel dì sono che non ce l'ho più il dolore appena mi alzo dal letto. No, non esiste, capito? Rimane il fatto che se però ne approfitti, fai qualcosa di pesante, allora ti ritorna, perché l'ultimo anello io ho della colonna vertebrale che non ce n'è più, è consumato, quindi è chiaro che devi darle del lei, capito mi hai? Vai Tony. Emanuele voleva andare per la seconda volta a provare, dice dopo la seconda seduta, ha detto no Emanuele, io non ci butto più i soldi. Allora io facevo Feldene e Muscorino. No, Feldene e Muscorino. E facevo di tutto, ne ho fatto iniezioni, Claudio, una cinquantina. Io avevo il culo con la brodola e non ti dico palle. Che me le faceva mia sorella, che è brava su queste cose qua. Niente, alla fine andavo all'ospedale piangendo. E mi hanno fatto finire la morfina, infatti il cortigiano di tutto me ne è fatto. Poi mi ha fatto questa risonanza magnetica, mi ha ordinato queste lezioni da cavallo, e la verità, per 2 anni non ho avuto niente. Poi mi torna venuto, dopo 2 anni, cosa ho fatto? Io ho ripreso a fare quelle lezioni che mi hanno ordinato la prima volta all'ospedale, da cavallo, con delle pastiglie, niente, non mi passava, sono tornato all'ospedale. Ho parlato con questo che mi ha dato questa cura e mi ha dato un'altra cura di soltanto pastiglie. Con queste pastiglie mi è passato per altri 2 anni, non c'ho più niente, tranquillo. Poi mi è tornato, ma dove ci ho fatto la cosa? E niente, ho preso solo tachipirina, mi sono migliaio. Ho queste pastiglie che Targin mi pare si chiama, antidolorifiche. Però niente, adesso ne ho 3, prima ne avevo una, adesso ne ho 3. Ho deciso, niente, per l'ennesima volta non faccio più cazzate. Terei contatto con questo professore, è praticamente all'ospedale di Cagliari. Non mi posso operare se ho cardiopatico, però automaticamente me lo faccio al laser. E boh, eliminato, non ce n'è più. Però è una buona soluzione. Se vuoi un buon antinfiammatorio per le ossa, proprio per artrite, per l'ernia del disco, per tante cose, Airtral è una confezione da 20. Io quando mi viene il dolore prendo una di quelle, in giro di 12 ore sono in netta forma, è fortissima, non puoi guidare quando prendi quella pastiglia, capito? Però è molto molto efficace, a me me l'ha data l'ortopedico e ti dico che va bene. Va bene, lasciate perdere le bustine di occhi, di misuride, di cazzate, quelle ti abbattono il dolore così e poi l'indomani sei punti a capo. Questa proprio è efficace, è una medicina proprio per queste cose qua, capito? Avanti, Grazia. E tu come stai? Ma sempre in terapia sei, Grazia? E allora? Ma poi io ho anche la sulfurosi. Sto con tutto un dolore, mi dolore dappertutto. Busti, bracci, inchina, inoci, gambucci, tutto dappertutto. Mi ho preso la aspirina poco fa, perché un po' me la allevia, ma il dolore me ne sento lo stesso. E sempre terapia, e allora, ossigeno, 24 ore su 24, ci posso desimettere, maggio di prima, e di qua niente da fare. Ho buttato 10 in macchina, posso da buttare alla macchina. E niente, vado da mia figlia. Nient'altro, non ne posso vigili come se mi rifassi a prima. Oh, oui. Poi mi vengono le dolore, sto fastidioso e me ne voglio tornare a casa. No, no, no. Lascia perdere, io tante cose le ho evitate, sono sceso molto di peso perché la schiena è molto importante per queste patologie così. Sono sceso quasi 12 kg. Però tante cose non le puoi fare, non venuto dalla va. Quindi Manuel, stamane ti sei bisciato, sei andato che ero molto nel garage, sei tornato che ero molto nel garage. Oh, lascia perdere, cazzo, lascia perdere. Che non riesco neanche a camminare e purtroppo io già lo so come sto camminando. Non posso stare così, cazzo, non posso stare così. Io devo fare qualcosa, cazzo, sono già un anno così. Vai Tony. Tony. Qua. Tonino. Tony. Aspetta, ho preso la penna. Cavolo. Che adesso Claudio me lo dice com'è il nome di quella. Che parlo col mio dottore, se la posso prendere, perché io mi ho già 10 pastiglie, capito che là. Dimmi sigla, come si chiama questa medicina che stai facendo tu, questo antidolorifico. Aspetta che la prendo dal cassetto. Il dolore soffrei e capirasse di denti. E quando lo dico, ma niente, non vi credi. Grazie, so come ti dirà, capirasse di denti. Allora, segnatelo. Dai, dimmi. Dimmi Claudio. A-I-R-TAL 100 mg. Tutto attaccato. A-I-R-TAL 100 mg. A-I-R come aria. A-I-R-TAL 100 mg. Capito? È micidiale. Sono addirittura 40 compresse sono. 40 compresse. E io per quanto giorni la devo prendere? Quanto è? Uno al giorno, tre al giorno? Com'è composta la questione? No, Tony, io ti consiglio uno al giorno. O la prendi a cena, o la prendi a pranzo. La mattina non la prendere se vai a lavorare. Capito? La mattina non la prendere. Prendine uno al giorno e vedi un po' cosa succede. Nel caso te lo allevia, ma non te lo passa del tutto, ne prendi due al giorno. Capito? Sempre dopo mangiato, devono passare almeno 6 ore, di più mi stai dicendo, ogni 12 ore va presa, quindi ne devi prendere una al giorno. Cos'è, un antidolorifico? Ehi, potentissimo per le ossa, potentissimo, fa veramente molto molto bene, guarda, io avevo problemi anche alla fascite plantare, no? La cosiddetta tallonite. Cazzo, anche quella mi è passata prendendo quelle pastiglie. Capo, ne parlo prima con la dottoressa mia, perché io prendo un sacco di pastiglie, capito? Quindi, sia per il diabetico che sono e poi anche cardiopatico. Mia moglie mi sta dicendo che la puoi prendere anche la mattina dopo colazione, però, ok? E la notte. prima di andare a dormire, a pranzo no, quindi una la mattina e una la notte ne puoi prendere, però dillo alla tua dottoressa e poi vedi un po', dopo se vedi che è efficace allora continui, almeno per una settimana. D'accordo, grazie per l'informazione. Comunque, ho lavorato, diciamo, un po' leggermente, ma meglio degli altri giorni, quello posso dire a voce alta. Ma non più di tanto, perché poi quando camminavo molto nei corridoi, fare le scale, di nuovo il dolore, mi fermavo da cavolo. Non mi ha fatto proprio nulla che la acupuntura, la mazzagna in varia. Ma noi se non è una acupuntura, Tony, chi c'è un gioco di mago, di magia, capito? La magia non serve per fare queste cose. La magia serve per nascondere le carte, per far sparire un bicchiere, no, non per far passare i dolori. Fare i dolori io vuole la medicina, se no non ti passa, lascia perdere. Tu prova questa, magari non per tutta la settimana, prova per tre giorni così, pranzo e cena, o colazione e cena, non capito. Ci deve essere un po' di distacco. Io ti consiglio colazione e cena come facevo io. Io facevo colazione e poi mi prendevo una pastiglia e la notte dopo cena me ne prendevo un'altra. L'ho fatto per tre giorni e ti dico che in netta forma, Tony, in netta forma. Prova, senti la tua dottoressa e poi me lo dici. Magari la passi anche a Manuele, perché questa è apposita, addirittura l'ortopedico l'ha data anche a mia figlia per artrite reumatoide, figurati. Dimmi una cosa, la scatola è bianca, c'è un coso rosa a quadrato, eccetera, eccetera. Così è. Esatto, scatola bianca con un talloncino sotto rosa e c'è scritto aceclofenac. E sopra c'è un cuoricino con una cosa tipo il coso ritmo del cuore. È quella lì, sì. È quella lì, è quella lì. Guarda che è molto, ma molto buona. Veramente molto buona. Va bene, ecco prima, noi. Ma in pratica questo qui, Ocla, ti mette in sesto, ti fa camminare bene come prima. Guarda, io avevo grossi, grossi, grossi problemi. Ti ripeto, come si dice, insieme ho deciso di dimagrire, ho dimagrito 12 kg, quindi anche quello mi ha aiutato tantissimo. Però prima, quando ero sovrappeso, ero più di 90 kg, non riuscivo manco a camminare, niente, mi tirava la gamba, mi faceva male la schiena, camminando cavidavo tutto barredotto. Con queste pastiglie mi sono messo in sesto e poi ho dimagrito, e magari dimagrendo mi ha aiutato anche quello lì, capito? Il peso della pancia per il movimento della schiena è molto importante, questo non lo dico io ma lo dicono i medici. Sì, quello si sa che dipende anche dal peso. L'importante è che fanno bene, che ti passa l'infiammatura, perché sicuramente c'è anche l'infiammatura, per quello che mi fa male. E che mi faccia camminare, quello è, che noi che cammino forse due passi e ora mi devo bussare. Guarda, se sei così è perché è un bel infiammato, è un bel infiammato. E ti comprime, perché chiaramente la cartilagine consumata va a fregare e ti fa un bel dolore, è chiaro che ti devi bussare. Quella infiammazione con questo tipo di pastiglia sparisce, l'infiammazione sparisce e ti mette in condizioni di stare in piedi, capito? A me ha fatto così. E quando io gli ho detto al medico, appunto, mi stava facendo bene, mi ha detto adesso bloccati, la riprendiamo fra 2 o 3 mesi. E così ho fatto. Adesso io la sto prendendo ogni tanto, uno ogni tanto, giusto per alleviare quando faccio stravizi, capito? Il giorno che abbiamo per lì è montato l'antenna, che non è che ha giovato nulla, però quando sono arrivato a casa un po' sentivo dietro la schiena. Mi ho preso una di quelle pastiglie e la mattina non avevo niente, nessun dolore. Meglio così, capito Tony? Sì, sto leggendo qua che c'è qualcosa che mi interessa, se hai una patologia cardiaca o cerebrovascolare, per esempio se lì ha avuto un attacco di cuore, un ictus, no, quello non ce l'ho, grazie a Dio, eccetera eccetera, istruzioni dei vasi sanguigni del cuore, del cervello, intervento per eliminare queste istruzioni, un bypass, se ha avuto dei problemi di circolazione sanguigna, insomma niente, non parlare con un cardiologo o la mia dottoressa. Dopo la Tonino e gli fa male. Certo, tu consulta il medico, perché se sei cardiopatico, leggi il bugiardino lì a vedere cosa dice, ma consulta il tuo medico. Però ti dico che come medicina è molto molto efficace, perché è apposita per le ossa, capito? Ma cos'è? Polverina o pastiglie? Pastigliette piccoline sono. Qua mi diceva anche in polvere. Sì, c'è anche in polvere, ma io preferisco le pastiglie, perché mi hanno detto che sono più efficaci, capito? Okay, ma non mi puoi mandare la scatola su WhatsApp? Certo che sì, aspetta, faccio la foto. Così vediamo com'è, lo faccio vedere al dottore. Vedi Maruè, tu che non vai nuda, lo puoi fare, pigli anche, ma se gli fai fare la ricetta, che è molto più facile per te. Anzi che pigliarci pastiglie via internet, che non ti ha fatto nulla, 49 euro la patica. E se crepo prima i fiori me li porti? Già ti porto anche i cingomi Big Bubble. Cazzo! Ma che guardo se ce l'ho io! Cos'è, grazie? Com'era il nome di quelle pastiglie, che guardo se ce l'ho io? Boh, com'era tu? Aspetta, questo si chiama Airtal 100 mg. Sì, ma io non li assumo acidi, quindi automaticamente penso che potrei prendere. Comunque, prendi sicuro, ti ha chiamato la dottoressa. Ari, come te? Come l'aereo, Air, Alfa, India, Romeo, poi Tango, Alfa, Lima, Air, Tal, 100 mg. Chi te l'ho mandata, Manuè? Sì, adesso l'ho vista, Air, Tal, 100 mg. Adesso questa qui, ma ricetta ci vuole o possiamo andare in farmacia a qualsiasi momento? Saranno lo stesso. Se conosci il farmacista sicuramente sì, se no ci vuole la ricetta, Manuele. Allora vado dal dottore e gli dico se posso prendere queste pastiglie per questo problema qua. Certo, l'ho mandato anche a te, Tony. Cazzo, ti ho dato il buongiorno stamattina, ancora non l'hai detto, Tony. Cazzo, leggilo domani. Ma già ci siamo sentiti, cra. A me interessa anche sentirci. Come non l'ho letto, io ci avevo. Dunque. Allora, Claudio. No, veramente mi è arrivata alle 17.55 questa qua, Ah, no, ma questa è la cosa che mi ha mandato. La scatola, buongiorno a te e buon lavoro. Alle 6:07:20. Alle 7:20 ero già io fuori in macchina, io, quando guido telefono vai da poco e nulla, mi scusare, però il buongiorno io comunque te l'ho mandato alle 5:37. Vabbè, che c'era? Ancora mai mi stavo lavando, sono uscito alle 6:15, 6:20. Poi ho fatto mangiare il cane, tutto, pulito tutto, poi sono andato a mia figlia al bar, fare colazione. E poi sono tornato. Va bene, va bene. Comunque, Manuè, falla vedere al tuo medico, alla tua dottoressa, al tuo dottore. È molto efficace, molto. Ti dirà sicuramente che è una buona medicina, però è forte. Quindi, senti cosa ti dice. Ci vuole la ricetta. Non te la danno così in farmacia. Adesso gliela faccio vedere al dottore. Domani mattina vado e gliela faccio vedere a lui. E in caso è questa, una al giorno e basta. Dopo i pasti. Questo dipende da cosa ti dice il medico. Io ti ripeto, ne prendevo una dopo ho fatto colazione. Colazione, quindi ho caffè con latte, una brioche, devi mangiare che cosa? Una frutta, quello che vuoi, e te la prendi. E l'altra te la prendi la notte, dopo cena. Io così stavo facendo. Ah, due ne devi prendere, non una, no. No, io ne stavo prendendo due. Tu prova con una a vedere, ma se è così infiammata penso che due siano più che sufficienti al giorno. Però non a pranzo, una a colazione e una a cena. Dopo che hai mangiato, dopo che hai cenato. Ho capito. Vai, Tony. Grazie, ci sì. Però bisogna vedere cosa ti dice il dottore, c'è un bel forte, bisogna vedere. Tu dici al medico e te lo dirà lui quando lo prendi. Fai Rubiere, Emanuele. Cosa, Giovanni? Buonasera, cara. Ah, Emanuele, sai Rubiere. Se vi devo andare al dottore, ciao Giovanni, buonasera. Chiedete al vostro medico, quella è la soluzione che mi ha dato l'ortopedico e mi ha messo in piedi, ma in piedi veramente. provateci. Se avete l'ernia del disco tutte e due o qualcosa che appunto sta comprimendo alla schiena, quella è efficace perché è fatta apposta per le ossa. Avanti Gianmarie. Ho chiacchierato che sto facendo cosa? Sto pulendo qua che con il simulatore stanno facendo un casino nero. Dai, e vi sto ascoltando, vai. Ehi, vai, grazie. Ehi, lo dice al medico e senti cosa ti dice. Se ne devi a due o una, eh. Il parere del medico è sempre meglio. Capito, Manuel. Se domani mi avvicino, se ve la posso camminare, mi avvicino domani e vedo un po', se in caso è mi faccio fare la ricetta e vado in farmacia. Se il Claudio ti ha detto che sono buoni, sono forti, vuol dire che già funziona. Io non lo so, magari vi raggiro, faccio un contenitore tutto pieno di medicine. E già ne ho di quelle pastiglie proprio pallussi. E magari ce l'ho, boh, devo guardarci. Prova a guardare, grazie. Io a me me li ha dati il medico. E ti dico che mi ha messo in sesto, però ripeto, ribadisco che io ho dimagrito 12 kg, ed è molto, molto importante il peso della schiena. Capito, quindi può darsi pure, però mi sono accorto dalla fascite plantare, dalla talonite che mi è passata, prima non potevo mettere scarpe, dovevo tenere le solette, quelle ortopediche, adesso le ho tolte e sto camminando benissimo, capito, quindi è proprio questione di infiammazione, mi ha fatto bene anche a quello, mi hai capito Manuel? Sì, ma sicuramente io ce l'ho molto infiammato. E niente, è per quello che sì, cammino, ma pigiado cammino, perché se mi metto dritto inizio a tirarmi i nervi delle gambe, dei polpacci, tutto. Dopo la quarantina, un dolorino ogni mattina. Buonasera. Ciao Giulio, buonasera. Ehi, dopo la quarantina, 40 anni camminavo Vurendi. E dopo la cinquantina cominciano i dolori, ma la giugli. Già lo so io cosa vuol dire la sciatica. La sciatica è dolorosissima. Sono stato 7 mesi io, prendo i punturi e non mi aveva fatto nulla di tutto. Alla fine ho preso una stufa, vabbè è un po' lunga da raccontare, una stufa, mi sdraiavo per terra su una coperta e mi scaldavo la parte del lombo, tutta la gamba, me la scaldavo bene. Beh, nel giro di una settimana nemmeno mi è passato il dolore, non l'ho più, mai più risentito. Ed ero 7 mesi che non riuscivo a camminare con la gamba che la trascinavo. In falegnameria mi guccavo in mezzo alla segatura dal dolore, per carità. Vai, grazie. Vai, che mica c'è il baudaggio, mi. Di la verità, ti mira tagliata e ti l'hai fatta di legno, eh? Vabbè. E allora, viva a tutti. Poi, è che mi ha dato una soluzione a mio cugino. Uno che trabagliava i ripilare degli animali, indivirano i ricavati, di vacchi eccetera eccetera, ma comunque questa è un'altra storia. Ma già lo conosce, Manuele già lo conosce. Giulio, mio cugino, mi aveva dato la soluzione, Manuele. già lo so, ho giù. Guarda che non sto scherzando qui, guarda che io non potevo nemmeno muovermi, ti giuro che non potevo nemmeno muovermi. E avevo appena 38 anni allora, avevo. Un giorno viene mio cugino e mi fa, e cos'è che hai? Sto così e così. Oh, allora ascolta, fa una cosa, vieni domani da me. Vieni su da me in coso, domani. E ti metto davanti a una macchina, però viene alle 11, perché a quell'ora non c'è il dottore, non c'è niente. Lui è l'infermiere lì. E vedrai che quando esci da lì non sentirai nessun dolore. E così è stato. Ma posto davanti a questa macchina, mi ha scaldato benissimo la parte dolorante e non avevo più dolore, potevo correre come te ho putrito. Beh, poi alla fine mi ha detto anche, per adesso quando sei raffreddato ti fa male di nuovo, ma se ti fai un po' di applicazioni di questo genere vedrai che ti passa il tutto. E così è stato, ti giuro che così è stato, e avevo fatto più di 80 punture di Trimanuel. Sei sparito giù? Sparito Manuela. Sì, ho capito giù, ho capito. Ma il mio non lo so se è lo stesso problema che c'hai tu, che c'avevi tu. Io cazzo sono già tutto l'estate e l'anno scorso pure iniziava già a farmi male, a volte mi passava, a volte mi veniva, e adesso ce l'ho proprio cronica, ce l'ho tutta l'estate adesso. Sì, ma è questa soluzione io l'avevo data a un'altra persona che veniva in falegnameria in via Salvatore Farino da Lacchena, ce ne siamo incontrati un giorno e anche lui era nella stessa situazione ed era un anno e mezzo dopo. Gli ho dato quella soluzione, anche lui è guarito. Cosa vuol dire? Il problema sai qual è? Che fra le due i nodi, diciamo così, della spina dorsale passa il nervo, lì si abbassano i nodi, si abbassano e schiacciano il nervo, schiacciando questo nervo ti fa venire questo dolore atroce, ma veramente vuoto. E mi si spostava dal lombo, un po' nel lombo, nella sotto la coscia, un po' nel polpaccio, un po' nel coso vicino alla caviglia, mi si spostava continuamente questo dolore, era la sciatica. È brutto veramente, perché ce l'ho, cazzo, sto camminando tutto quanto bigiato o giù, è veramente brutto. Adesso vediamo un po' cosa fare, se passano queste pastiglie qua che stava dicendo Claudio. Adesso domani vado dal dottore a vedere se me le possono prescrivere. Vai qua. Tu vai e vedrai, già ti metti a posto. Datemi un attimo che è arrivata gente, arrivo subito. Riprendi Tony. Sì, Tony non si è sentato un attimo, ma ha detto riprende subito. Vai Graziano. Vai giù, si è sentato anche Graziano. Ok, sarà sacchino di battigli, Graziano. così è, ma no. Guarda che io non ve la buio a farmi, non ve la buio a farmi, manco a te in piedi. Quando mi alzavo, ad esempio la notte, no? La notte, allora abitavo nell'altra casa, abitavo. Avevo la camera da letto che era abbastanza piccola. Siccome mi sedevo nel letto, mi attaccavo al comò, mi tiravo con la forza della braccia per mettermi in piedi. Come mi mettevo in piedi, mi si formava un coso, sotto la cuscia, sotto la natica, alla parte di dietro, nella natica, una specie di coso, di boccia, duro, ma duro in una maniera impressionante. A quando sciogliersi per arrivare in bagno, perché mi alzavo verso le tre così, ad andare in bagno a urinare, mi praticamente un quarto d'ora, io in piedi, davanti al comò, attaccato attaccato al cantarano. Proprio perché? Perché non si scioglieva questa cosa e io non mi potevo muovere in una maniera impressionante. Un dolore, una cosa, guarda, non te lo posso nemmeno dire, descrivere come. Sì, lo so perché lo fa anche a me. Io se mi alzo, sto due secondi in piedi, inizia a bruciarmi dal polpaccio, la cuscia, mi parte dal bacino fino al polpaccio e la cuscia. E poi mi tira, è come che uno che mi tira con qualche morso, con qualche cosa. Ma c'è il dolore, mi devo subito sedere. Non posso camminare, che mi devo subito sedere perché mi fanno male subito. Sai come ti ho detto, prendi uno dei tuffi elettrici, di quelle a parabola di una volta, che si usavano una volta, l'attacchi alla spina, anche se c'è caldo, io me l'ho giovato, pure in pianissimo me l'ho giovato, questo trattamento, mi coricavo per terra e mi scaldavo bene, ma bene veramente, tutto il lombo e tutta la gamba, me la fazia ruia come una pomata dal calore, della stufa. Beh, ti posso garantire che mi è sparito, non ne ho mai più sentito. Cazzo, bebo. Uia, mamma mia, mi sta facendo impazzire infatti questo dolore qua. Adesso sono già da un po' che ce l'ho. Camino sì, ma dai noghi forse un metro e mi devo subito buzzare, se no sono con gli scendi, perché ho fatto così. Sì, è proprio io, è bello se il genere. Ma tu pensa che questa qui, un periodo di vecchi, di Natale, ad esempio, fa posarmi, io pigliava due catri e punia una affiancata all'altro e ti lasciavo uno spazio fra uno e l'altro. Perché poi a un certo momento mi faceva male, anche lo so sacco mi faceva male. Sicché mi cedevo una natica in una sedia e una natica nell'altra sedia, poi dici no, una cosa va a dai, non me la menti mai. In bottega ha dovuto abbandonare tutto il lavaglio, ho dovuto lasciare, perché io con la forza della volontà non bastavo, andavo a lavorare, ma da buio di un quarto d'ora mi dovevo coccare in terra dal dolore, in mezzo alla segatura, una cosa spaventosa qua. È brutto oggi, è brutto brutto. Adesso vediamo un po', proviamo questa soluzione che delle pastiglie che ha preso anche Claudio, vediamo se me le dà la ricetta, se me le fa prendere, proviamo queste qua, se no l'unica è fare il coso al laser o giù, e non se ne va più da più, se ne deve aprire il bacile, la deca, manca, vende agopuntura che non vada in un accidente, vai classi, sì. Era il ruolo di domani, da disoccupa che cosa io, per carità. Sono male sì di dolori, grazie. Bisogna conviverci, cosa devo dire? So che ti subiamo i ma pari due, o giù. Carità. E diabete, morbo di Crohn, e pastiglie per il cuore, perché sono cardiopatico, due tipi di bacilli, marugoli, ossigeno. Ma non c'è più Gassano giù? Non è sì che c'è, di che sta parlando? Ma a volte lo sento, a volte no. Sì, che sa, vuol dire che sei spostato, grazie. Ti sei spostato, perché non ti sente più, alle volte ti sente, alle volte no, Manuele. Lo so, Manuele, ma dai, io gli ho fatto tutto questo quesenio, 80, non una, no, 80 iniezioni di trinevrina, me la mento, come ti dici. Avevo tutte e due le natiche, perché le facevo tutte le mattine, facevo questa puntura, facevo. Va via, le natiche tutti dove fate, una parte all'altra. Non c'era più spazio dove bucare, perché da un giorno all'altro la puntura non guariva. Va via, le natiche viola, tutte e due, dalle punture che ho fatto. Ebbene, non mi ha fatto nulla di tutto. Lo so, adesso vediamo, cazzo, vediamo, perché non ce la faccio più a stare così. Non si può andare avanti così, no, assolutamente. Avanti, grazie. Purtroppo è così. Cosa vuoi fare? Chissà, non ci batto giù un record. Tre volte all'ospedale ci sono andato. Per carità, manco i cani. Non so come sia, gli anni so cos'è un buco di respirare. Anzi, mi sono così prendendo, ogni tanto devo andare a fare controllo, eccetera. A volte devo andare di nuovo al nuovo, per farmi chitarra su controllo, a Kinshasa lì, è tutto esaurito, non vedo luogo. Prima me l'hanno assegnato a Oristano, da poi da Oristano me l'hanno disdetto per la questione del coronavirus, dice non ci venga perché non siamo chiusi, non stiamo facendo. Allora ho fatto di nuovo la richiesta tramite il CUP e me l'hanno assegnata a Nuoro, al 9 del mese entrante. Ti puoi immaginare, ma speriamo va bene, cosa volete dire? Anche io stamattina ho telefonato al cupo, ho così due mesi a pressaiti e ancora non hanno riattivato niente, né al Contini e né in via Secchio, in via Zaffari, niente da fare, proprio l'altra settimana. Ma io lo volevo fare questa visita che devo fare, mi serve per poter poi assegnarmi la prescrizione della terapia che dovrei continuare, no? Perché Naggio va in tutto fa 3 anni di terapia. E la volevo fare a pagamento. E sarà dopo di Sassari di queste ambulatori. E come la devo fare io, la visita col contrasto non è valida, la fanno solo con normale, senza il contrasto, dunque non mi serve a niente, la devo fare per forza in ospedale, la devo fare, 300 euro, ma è salato in Sassari, non te ne valida. Sì, è tutta bloccata ancora, ho telefonato anche stamattina, niente di niente. L'ultima volta gli ho mandato le analisi al diabetologo o tramite email e a chi mi ha detto me li mandi a casa tramite email e li controllo e poi le dico, e così ha fatto. Purtroppo è così, è cura che fa problemi di salute, cosa volete dire? Siamo in mano alla fortuna o alla sfortuna, comunque Manuel, prova a pegliare le tuffe, prova a fare una o due sedute come ti dà giudizio, vedrai che appena che sei caldo non serve più niente, vedrai che col tempo con una serie di riscaldamenti così ti passa tutto. La pastiglia certo che te lo passa, il dolore ti passa il dolore giornaliero e all'uguiglia, perché è ovvio, però non è la soluzione secondo me. Prova a metterti la borsa dell'acqua calda dove c'è proprio il dolore fisso, a chi mi migliora va di così e ribassa l'odore, fa un paio di divide, vi ribassa, se la mette proprio sopra dove c'è il dolore e glielo passa un paio di giorni, non gli fa male. Sì, con un calore bassa, con un calore di bassa, te lo so che senti, solo che adesso è estate, con un calore non è piacevole, lo sappiamo, però lo deve sopportare, pazienza, vai a sudare, quanto ti pare di piatti, però è meglio sudare che avere dolore, capito? Vai Emanuele. E va bene, adesso vediamo di darci da fare, perché cazzo così non va bene. Non va bene stare così, perché non puoi fare nulla, così non puoi fare nulla. Cazzo dei bari, uno di 80 anni, ne manco uno di 80 anni si muove così, lui. Siamo proprio una rampazzi, ecco che. Ma noi, quando mi ha detto mio cugino, vieni su da noi in clinica, che ti posso questa terapia, ha detto, ma cosa mi hai pigliato? Ma che cavallo mi hai pigliato? Ma che sentita? Vieni, ti ho fatto, vieni, che è la stessa cosa, che è lo stesso trattamento. E c'era questa macchina, c'era. Mi ha messo davanti, ha chiuso le porte e se n'è andato. Ha detto, tra una mezz'oretta ritorno, ti apro, perché intanto non viene nessuno, delle femminchi, vio? E beh, così fazia, e bisogna andare, dopo una guida bisogna andare, andando. Alla fine, ho detto, ma se faccio io con la casa, con la stufa, prova con la stufa. Ma hai provato, mi è passato, ma che me l'hai fatto, ma sai che da voi con la stufa? Non hai più inteso, ma non è. andare, così. Cazzo, metterlo proprio, cazzo, l'hai proprio sciuccio, che so gosso, che so dolore. Se te lo so così senti? Giulio, mio cugino, già lo conosce, no? E lui era in clinica, era la veterinaria, e allora gli ho fatto qua, faccio il momento, ha detto, mamma, così, vieni, ti ho detto, non fare lo stupido, vieni, tanto cosa da perdere. Detto, beh, alla fine gli ho fatto, ma che faccia ragione, che io abbia provato di tutto, tu pensa che abbia provato, ovviamente chi si vermi di veci, chi fa l'orazione, cosa ci dentro si chiama, tutti quanti che si imbarano, che disegni. Chi sei provato, questo, può essere che non hai provato, di tutto. beh, niente mi ha fatto nulla di tutto, mi ha fatto solo, beh, Lucaroli e basta. Sì, un poco mancanti il 3 Giulio, per carità, e tuttora è mancante, non la ci ha mandato mai, eh. Io lo so, anche su sì, però canta queste cose, la verità, a me però manco mi ha aiutato, proprio di sua iniziativa mi ha aiutato, poi lo sappiamo, volentieri un carattere suo, lo sai, è sempre ebuzioni, eccetera, eccetera, ma comunque la partita è una bravissima persona, però soprattutto di buon cuore, ma un bel di buon cuore, non poco, no. Se tu vai andare a casa sua e gli dici, capita che bella che sa radio che è, allora vuoi, prenditelo, ma che non ne voglio, prenditela, non rompere scatto, te la sto regalando, così fate mio o Manuel. Sì, già lo so, sì. Adesso si sta mettendo a fare i candelieri, queste cose, robe sarde, le faccine, fa passare il tempo. Sì, ma se li tagliavo io i pezzi, li tagliavano. Una volta l'avevo tagliato, roba di 300 pezzi, li ho tagliato, per fare le cose, per fare i candelieri, ma noi davano. E anni ormai, va sempre questa mania di costruire candelieri e tante altre cose. Già lo so, sì, o Manuel. Vai, grazie. Beh, è arrivato di basso al tempo, non si niente, si fa di bene, invece sta imburato così, uno si affetta. Fa bene qua. Fa bene sì, intanto cosa da fare? È pensionato da tanti anni, per cui anche lui ha avuto i suoi problemi, grazie a Dio li ha risolti e dunque sono contento per lui. È più giovane di me, grazie a Dio, è più giovane, roba di 2 o 3 anni, più poco di me va. Perché, ma è molto arzillo, è molto presente sempre in tutte le cose. E da poi è pure intelligente, è Buzioni, ma è un bel intelligente. Vai Emanuele. Chi se non ribudica è tonto, chi se non ribudica è tonto. Poi quando faceva lo meccanico ancora, era anche bravo a fare meccanico. Ah, come ente meccanico era straordinario. Era un ingegnere di Rasir, una volta è andato a lavorare a Rasir, no, non mi ha convinto a lavorare a Rasir. A contare il cartello pillar, i sollevatori, i besi, no, che sa fare i trattano le macchine. Quando è andato e ve l'ha detto, guarda, in queste macchine si brucia la frizione, al massimo 15 giorni si brucia la frizione. Ah, va bene, adesso la vediamo cos'è. Dai, da poi te la contro il rito, ogni tanto bisogna attaccare il tuo portatilino, anche se no si interrompe la giura, compreso? Avanti, grazie. Ehi, vai là, ti saluto che devo fare cosa, devo andare a fare l'insulina a mezz'ora. Ce la risentiamo, ciao. Ogni tanto si sparisce. Ah, eppure io lo sento sempre. Ciao. No, si abbassa di segnale. Forse si sposta, perché si sposta magari. No, io già lo sento sempre. Graziano, come ti riporta, non ti va a intendere da Manuele, grazie. C'ho il portatile sul tavolo, capito. Va bene, alla prossima che io devo chiudere Giulio. Ce la risentiamo, salutone a tutta la ruota che ti è in ascolto. Riprendi giù. Ok, ciao, grazie, ci sentiamo le prossime, dai. Vai Emanuele per salutare a Graziano. Ciao Graziano, buon quadretti con tutto, dai, buona serata e ce la riascoltiamo tutte le prossime. Ma deve essere, sta usando un antennino in gomma suo, col portatile suo, con l'antenna originale sua, non è collegata all'antenna esterna. Sì, infatti è con il gommino, sì. E anch'io sempre quello, anch'io sto usando il gommino, ma evidentemente la posizione va meglio, cosa ne so, ma comunque è strana che sta frequenza. E ti stavo dicendo, entra a Porto Torres e incomincia a lavorare. Smonta il cartel pillar perché gli si bruciava sempre la frizione. Pensa che era venuto anche il tecnico da fuori, dalla fabbrica, perché queste macchine erano appena comprate, nuove, ed erano difettose, gli si bruciava sempre la frizione dopo 15 giorni. Piglia, smonta lui, gli chiama l'ingegnere, guarda l'ingegnere, questo per riparare questa macchina bisogna modificare il plateau di queste macchine. Ce l'ha fai tanto l'ingegnere, ma lì è pazzo. E cosa, se le macchine sono nuove, hanno un mazzo, pazzo sono, beh scusa, se le faccio lì, ciao, e se ne è andato. E vabbè, da poi te la contro un rito. Carità. Vediamo un po' se è rientrato Tonino. Tonino. No, io non è rientrato. Beh, a un certo punto, siccome c'era un geometra anche, che praticamente era lui che l'aveva fatto entrare, perché era il geometra che l'aveva raccomandato a questo ingegnere, no? Prenda questo giovane, dice, come meccanico che è bravissimo. Piglia credo e lo convince, ritorna al lavoro e le fa, ascolti, se lui vuole che io gli ripari queste macchine, deve fare come le dico io. Deve farlo rimodificare, la porta alla rettifica, lo manda alla rettifica e lo fa rettificare di quanto le dico io. E così ha fatto. E le va del ingegnere, ascolti, se lui rovina, se lui fa rovinare il plateau, delle cose la paga lei, eh? Sì, non si preoccupi, lo pago io. Lì però mi faccio fare la modifica che le sto dicendo io. Piglia, lo butta la rettifica, piazza la cosa, non si è mai più bruciato una pressione di queste macchine. Oh, Manuel. Non lo posso immaginare. No, comunque me l'hanno detto che era bravo anche Giulio a fare motori e macchine. Ah, come meccanico è straordinario. No, bravo, no, di più. A di bravo è poco, di più. Facevo le macchine pesanti, camion, eccetera. Una lì mi volto giù, ho un problema, mi sta scendo ogni tanto la spia dell'olio. Ho fatto, vabbè, vediamo un po' cosa è successo. Guarda, avevo rifatto il motore, e chi te l'ha rifatto? Io l'ho rifatto. E ho camminato per un paio d'anni, col 1200D che avevo allora io, no? Detto, e ti si accende la spia dell'olio, e prima non si accendeva. Allora io vediamo un po', piglia credo, controlla, tu hai messo lì c'è l'alba da camme in una posizione che non doveva essere, hai otturato il passaggio dell'olio ed è per quello che ti si accende ogni tanto la spia dell'olio. E ha provato la così, no? Punteria eccetera, niente da fare, era saggio, non era possibile. Ha detto vabbè, dice ti smonto il motore e te lo rifaccio io, ma boh, fai così. Era bravo. Li sapeva fare. Chi è che vuole entrare? Tonino. Eia. C'è ancora Claudio? Buonasera comunque a Giulio e chi c'è altro? Boh, non mi ricordo più. Ciao Tony, ciao. Ben ascoltato. Sì, prende e mi fa, ascolta, facciamo una cosa. Io alla settimana entrante ti faccio il motore, vabbè, te lo butto giù io il motore e te lo faccio da capo tutto quanto, tu me lo fai rettificare, lo porti da Ciano Melone a Sera Seca, fai fare la modifica, la rettifica e mi fai anche fare la cosa, abbassare la testata leggermente, spianare la testata, non abbassare, spianare la testata, vabbè. Quanto ha fatto? Mi ha detto, la sera me ne viene all'Ugio, a Buttuia, me ne viene. Aio, dice che togliamo il motore è tuo. Come fai a togliere il motore adesso al buio? La macchina è in carriera, all'8 di sera, è la via d'inverno. Te lo racconto dopo, intanto si stacca la trasmissione, vai Emanuele. Andare. Vai Tony, se c'è Claudio, fare chiamata, ma penso di sì perché era qua. Attenzione Claudio. No, ma se n'è andato, doveva lavorare, fare qualcosa Claudio, non so cosa è successo. Il fatto sta, Manuel, mi fa, guarda che nel magazzino c'è una lampada portatile, vai lì. Più su della chiesa, un magazzino lì e vai e prendimi, mi ha dato le chiavi, vai e prendimi la lampada portatile e sono cassato, no? Detto, fai in fretta per quello, così illuminiamo il motore e così te lo stacco. Beh, tu non puoi andare a credere, Canto mi vuoi stare da Butria, dal magazzino mio, alla chiesa del monte, a stare a fare, canto mi vuoi, io sono cassato a fare in un attimo. Beh, quando sono tornato io, il motore in terra. E non ti fate con il motore. E mi sono coricato sotto, dice, e ho spuntato il motore. Arrugio, una cavata del motore, arrugio, ti puoi immaginare. Pensando, a me cane ci diava la cazzo se le munia in busciacca. Sui, con meccanici, e mando solo i meccanici a roba, a chiudere, per l'auto, per in gamba. Perditi, no, mi ha fatto il motore, non si è mai più filmata la macchina, ce l'ha buttata da buio per lui, c'è anche mezzo traccato la vita questa macchina, da buio 80 anni, ce l'ha buttata da per lui, c'è un camminendi, funzionante, perditi, no, bravo, il meccanico è veramente bravo, ma ottimo veramente. Era bravo, sì, adesso va in pensione, no? Non ha fatto più nulla, adesso c'è l'età sua, però se si mette a farlo te lo fa lo stesso, perché ovviamente c'è la luce da sempre. Mi sembra che c'è la Claudio si è rientrato. Oh, ma noi lo chiamo anche alla bassa, niente, non mi risponde. Comunque ho chiamato la mia dottoressa, ok, lo posso prendere quello lì, domani mi manda la ricetta. E allora me ne prendo una anche a me, una scatto. Sì, io ti mando due cazzole, mi dice, ma cioccolata martiglimi. E beh, una abito io. Te ne do una fila di vite e vite ne tengo io. E facciamo così e poi vediamo. Alla prossima la prendo io. Ehi, cappa, dai, già battono anche il cazzo vite, a voglia. Quando vai a patente di rovai, una manzana alla sera, ma prima ne pigli una solo. Se vedi che ti passa è bene, se no ne pigli due, una manzana alla sera, sempre dopo i patti. Ma tu una ne prendi? Ti accompagnati la vita. Capito, poi vediamo, se non fa tenuta non ne piglio due, non ammazzano la sera. Ma Giulio, mi ascolti a me? Sì, senti, ho risposto, mi ci ho salutato poco fa, non mi hai sentito. No, ma io, perché siccome sto usando un'antennina attaccata al telefono in camera da letto. Sì, che ti sento, un po' bacino, ma ti sento, per cui non c'è problema, non ti sento bene anche, dai. Ciao, Claudio. Sì, scusate, c'avevo gente. Angito, già comprati la vedi? Così, me lo ritiro direttamente quando sono andato al tabacco e passo in farmacia. Cosa dici tu, Tonino, farmacia? Oh, Claudio. Ehi. Allora, la posso prendere, domani mi manda la ricetta via email e poi me la stampo e vado in farmacia e me la prendo. Perfetto, sì, si può prendere perché la prende anche la mia vicina di casa, che c'ha un problemino simile al tuo, quindi no, non c'è problema, capito? Sì, ma è molto efficace, già la conosce, quindi non c'è problema. Proviamo così, se non è tal caso andiamo col laser. Comunque quello di Cagliari si chiama Stefano Marcia. Si chiama? Dottor Stefano Marcia, quello professore che fa il laser. Ma bravo, dice che viene da fuori. È uno dei migliori, quindi... Questo è proprio specialista per ernia del disco a laser. E sarà quello che ha fatto anche a mio fratello, sicuramente. Non lo so. Però, Manuè, questo è dopo la pastiglia che ci ha indicato Claudio. Se vede che ci fa bene, si abbia luce il laser. Se vede che non ci fa niente, allora l'ultimo rimedio è quello lì. E adesso proviamo questo che ti ha accennato Claudio e poi vediamo. Scappa. Vai tranquillo che a vedere che mi senti meglio che c'è medicina. A me mi fa benissimo. Io non la conoscevo, ma l'ha data la mia vicina di casa e ho iniziato a prenderla e vi dico che fa veramente molto molto. È specifica per questo tipo di patologia. Quindi soltanto con la pastiglia ti passano tutti i macchini che vale d'urore? Sì, beh, con una pastiglia inizia a alleviartelo, poi facendo il ciclo magari di 2-3 giorni vedrai come si no, in netta forma dico non lo so, però a me mi ha fatto molto bene Tony, veramente molto molto bene, mi è passata anche la fascite plantare, capito, così è stata tallonite, evidentemente c'era anche un'infiammazione lì causata dalle scarpe antifortunistiche che portavo e mi è passato anche quello. Comunque è un ultimo antinfiammatorio e me l'ha anche accennato il dottore, quindi e mi sono assentato poco fa che sto parlando con il dottore di questo fatto qua infatti. E quindi niente, da prima dovevamo fare questo qua classico, da abbono a buono duio. a pulirsi gli spillini che se ne ha reccia la mazza di nevaria. Tonino, ci ho pensato a dirtelo l'altro giorno, capito? Altrimenti te l'avrei già data qualcuna e avresti già iniziato. Però visto che adesso hai già consultato il tuo medico, ti ha detto che la puoi prendere, prendila immediatamente, inizia la terapia e tu vedrai che in giro di qualche giorno, in giro di una settimana tu sei in piedi tranquillamente, perché a me mi ha fatto così. E a me, Claudio, mi interessa soltanto la mattina che lavoro, che non voglio avere questi problemi, che mi devo sedere quando c'ho i dolori, perché per me il trabacco è sacrosanto, quindi... Non mi voglio far vedere dai miei colleghi, i miei boss, i miei è tanto vatti, e cazzo, c'hanno ragione. E oggi ho resistito, un po' meno dolore, ma poco poco però. Per me, diciamo, quel minima cosa che mi ha aiutato era quell'affare che avevo messo sotto al bacino, che con lì forse ha contribuito in un'ora a avere due pulsi che mi spingeva forse a rientrare leggermente l'aria nel disco. Presumo che sia quello, poi il resto non lo so. Dimmi, Ludivo, chi sei il Laino? Chissà, ma guarda, sono troppo educato, voglia. Tonino, basta da lì, sei là, e noi ti impedì subito, ti filo là. Sì, anche quella c'è la scatola di mio duro, quella la puoi prendere mattina, sera, pranzo, a tutte le ore la puoi prendere. Allora, a te una medaglia, lo dici che va Gio, che mi dici sempre, tu non è la cappella, la tua è una basilica. È vero. Cornicione. Oh, yeah, yeah. Ciao Lu, buonasera, ben ascoltato. Avanti Giulio, ma Graziano non c'è più. No, si è sentato qua. Se n'è andato perché non so cosa doveva fare. Luca, tu mi dovresti dare il numero di telefono di Radio Venere. E non riesco a contattarlo, col numero che faccio è sempre occupato, ma è possibile che non riesca mai a... Anche quando è domenica io ho fatto 15 telefonate, 15 volte ho chiamato, non mi sono mai riuscito a prendere il telefono libero. Spiegami come fa tua madre a prendere il telefono tutte le domeniche, immancabilmente, io non lo so, la verità. Giulio, anche a me risulta sempre occupato, solo che io ho un po' di incorsi e gli mando un messaggio su WhatsApp e mi dice, mi dà l'ok e me lo apre, perché è un casino lì, è un casino, quando lui è in radio, che è nella, come si chiama, nella console, è un casino, basta, alza, va, esci di testa, ecco perché il telefono è sempre occupato, poi quando ha 2 secondi libero, prescate un tasto e attiva il telefono, se no è sempre occupato, io dovrei mandargli un messaggio per fare la chiamata, altrimenti più di una volta cioè mi ha visto il messaggio ma non me l'ha aperto il telefono, ma più di una volta. Io prima li facevo solo un messaggio normale, li facevo, ma adesso su WhatsApp lui quelli li legge e li ascolta, ma io il numero di WhatsApp non ce l'ho, perché il telefono che ho io è il telefono fisso della radio lì, della sala, capito? Vedo 24, 64, mi pare, eccetera, eccetera, ma sono non me la metto. Per dire, no, su WhatsApp io non ce l'ho il telefono di WhatsApp. Ah, lo vuoi il numero di WhatsApp? Sì, quello di WhatsApp voglio. Mandamelo sul telefonino, fai la cortesia. Ah, te lo do qua, non c'è problema, giù. Poi arrivo subito a mangiare il cane. Sì, sul telefonino, su WhatsApp, mandamelo. Mandamelo su WhatsApp. Perché me lo dovrei scrivere, capito, giù? Se tu prendi una penna te lo do, non c'è problema. Allora aspetta che io prendo la penna. Ecco qua, sto prendendo anche la carta per scrivere. È la penna da me come lascio, ecco qua, dal cassettino del comodino, e vediamo, aspetta, dai, forza, dimmi se mi senti. Sì, ti sento, dimmi. La 329 567 6742, ripeto, 329 567 6742, copiato? Sì, l'ho copiata, adesso te lo ripeto io. Allora, 329 567 6742, così è. Perfetto, perfetto, sì è quello. Dai, riprendete che vado a farmi la doccia che ero al mare, dai, a dopo, ciao, riprendi Giulio. Aspetta un attimino, o Luca. E a Tony, dimmi. Come si fa per dire mano a mano? Dimmi tutto. Allora io ho una radio in macchina, non che voto quelli grandi proprio. e quando mi si è incasinato, diciamo, l'alternatore, mi si è tutto azzerato. Non riesco più, la mia radio fa praticamente le telefonate, cioè io posso telefonare eccetera, e niente, non riesco più a riprogrammarlo. Lo so che tu sei bravino con queste cose qua. Dovrei vederlo, Tony. Dai, che radio è, mi hai detto? Un Kenwood. Ma cosa c'è, il Bluetooth? C'è il Bluetooth, sì, tutto. Boh, ci vediamo magari, no, un giorno che non vado al mare, perché adesso, vabbè, di mattina già mi trovi, però tu stai lavorando. Una domenica, lo so, se non vado al mare ci vediamo e lo vediamo, dai. Ma io non lavoro, questo è l'ultimo sabato che non lavoro, e poi la domenica, poi tutto solo la domenica. Quindi, non so come contattarti perché non c'è neanche il tuo numero. Boh, bene che non nasce, boh. Anzi, no, mi hai mandato roba su... su cosa se mi ha mandato? Su WhatsApp, aspetti, ti mando un messaggio, aspetta. Ok, non me la metto, boh, ci ho dato questi cazzi numeri, un casino, non capisco più nulla, ragazzi. Prova. Va bene, dai. Beh, ragazzi, io vi saluto, dai. La chiacchierativa ce la siamo fatta. Vediamo, do una controllatina sul 23 se verrà qualcuno, ma non perché voglio, per controllare. Babù, ci sentiamo, grazie per la chiacchierata, ciao Tonino, ciao Luca, ciao Manuele e Claudio, se sei ancora all'ascolto, suppongo di sì, e anche Graziano se sei ancora all'ascolto. Saluto a tutti, ascolto il vostro finalino e poi chiudo. Vai Manuele. Ciao Giulio, mi ha fatto piacere sentirti, dai, ci sentiamo ancora nelle prossime giornate. Buona continuazione di serata, dai, vai Tony. Luca, a quelle due che mi hanno mandato è tuo, vabbè, se c'è un WhatsApp mi date il messaggio, c'è anche il numero tuo. Ciao Giulio, alla prossima, dai, anch'io mi assento, vado a lavarmi, dai, riprendi tutto lì. Claudio, non so chi c'è, dai, riprendete voi che io mi assento. Ci sentiamo dopo forse, no, anzi dopo no, alla prossima, ciao Tony. Senti, provo a chiamare sabato in tal caso, Luca. Sabato mi chiami e poi ti fai un salto vicino a casa, sai dove abito, sì. Al monte? Sempre al monte, lì che sei in Canada, poi c'è la vedenza nel baracchino, c'è sempre. Va bene, dai, non c'ho problemi, grazie, ok. Ciao, buon corretti allora, ci sentiamo. Ciao. Avanti, Manuel. Ascolta, ma cosa fai tu lì? Vai stasera per quella roba là? Aspetta, ciao Giulio, buon corretti. Vado stasera per quella roba là, qual è roba? Manuel. Sì, più chiaro, stasera o vuoi telefonarmi? Aspetta, ti chiamo, dai. Scappa, ok.